È venuta quindi per il funerale? No, è negativo, venire dall'Australia è in salita, anche perché mia suocera è morta il giorno di Venerdì Santo e praticamente avremmo dovuto fare il funerale immediatamente. È morta, praticamente lei è morta il venerdì alle 5 del mattino. Il funerale l'abbiamo fatto il sabato alle 11, senza la messa, perché quando è settimana santa non dicono le messe per i morti, non suonano le campane, e quindi giusto la salma arriva in chiesa, portano giù la bara, il prete dà una benedizione dentro la chiesa, dice insomma quella roba là che deve dire in queste circostanze, e poi siamo andati al cimitero direttamente, capito? E quindi l'abbiamo dovuto fare in fretta, perché poi il sabato sera non era possibile, perché c'era l'inizio, non so, dei vespri eccetera, quindi era un casino il paese. Ma anche a Sassari è lo stesso, quando è settimana santa, anzi noi siamo riusciti a fare tutto abbastanza velocemente, essendo morta in ospedale gli hanno fatto subito il foglio, non c'è stato bisogno di niente, quindi l'agenzia funebre è stata veloce, grazie a Dio, e ci ha fatto tutto veloce. Vabbè, faccia l'anima sua, dai, questi casi. Molto grande. Già era grande, 92 anni avrebbe compiuto ai primi di maggio, e quindi già aveva una bella età, però diciamo sino a un mese e mezzo fa stava bene, poi ha iniziato a peggiorare, infezione, gli è venuta praticamente una specie di ischemia alla gamba, gli è diventata una gamba nera, insufficienza renale, insufficienza respiratoria, e così alla fine si è spenta piano, capito? Quando si ha una certa età ti vengono quelle mazzate lì, non ti danno scampo, capito? Purtroppo doveva finire così, ha sofferto un pochettino e ciccia, a chi non soffre, a chi soffre, insomma, è andata così. Scampo. E vabbè, andate avanti, Natali. E cappa. Io lo sapevo già, infatti gli avevo fatto già le condoglianze a Carlo dell'Asturia, e 92 anni già c'aveva una bella età a Carlo. E lo credo, arrivarci tutti a quell'età. E infatti, io per come sono messo non ci arrivo di sicuro. Mai dire mai, Natali, mai dire mai. Mio padre è morto a 96 anni. E anche mia nonna, solo che io, per come sono messo di salute, non penso di arrivare a quell'età lì. Tu sei come mio padre, morivano tutti, dice vai sotto camera, ma non sai quanta gente ha seppellito lui. Cioè, poi alla fine prima andava a trovare gli amici, prima in un posto, poi nell'altro, prima andava a Sacro Cuore, poi andava in posto a Sant'Antonio dove c'erano tutti quanti i suoi clienti, perché lui aveva il negozio lì vicino. E poi sono tutti morti, mi dice ma cosa faccio adesso? Sono solo. Si metteva sul muretto a guardarsi le macchine che passavano alla fine. Perché tutti gli amici gli sono morti prima di lui, e è rimasto solo quest'uomo, già lo so. Ma tu dici sempre tocca a me, ma lui, io dicevo tu dillo sempre, così continua ad andare avanti. E infatti tocca a me, mi viene l'assimero. Purtroppo la vita è quella, si nasce, si cresce e poi si muore. Infatti, e ognuno c'ha il destino segnato, secondo me, chi dura di più e chi di meno. Vabbè, dai, cambiamo argomento, che non è dei più allegri questo. Questo è poco ma sicuro. Vabbè, un attimo che stanno suonando. Allora, non è che... Avanti Marco, che stai facendo? Ero qua in cucina, scusate che non stavo ascoltando, avevo capito solo che Carlo ha subito un lutto, pare la suocera, e condoglianze Carlo per il lutto. E poi vabbè, ho preso il filo del discorso, dai, stavo facendo roba in cucina e quindi devo far bianco, poi se posso riprendo dopo, se no ritenetevi super salutati. Vai Gianni. Adesso sto facendo andare questo apparecchio così, voglio attaccare un amplificato a vedere come va. Una domanda già, quanti poli ha il microfono? Sempre 4, stesso attacco del Galaxy, del 3009, eccetera, eccetera. Guarda, mi hai letto nel pensiero, io volevo arrivare lì, volevo chiedere se per caso era cablato tipo Galaxy Superstar, quella roba lì, buono, perché è come qua, che siamo vari apparati con 4 poli, e poi questi President hanno tutti i pari 6 poli, è compatibile anche con la Linco che è 6 poli, posso, ho l'adattatore, posso fare un sacco di... No, non c'entra proprio, posso fare un sacco di combinazioni con i microfoni, che poi non ne uso io di amplificati, alla fine, mi burio, vai Carlo. Sì, grazie delle condoglianze Marco. Niente, anche il mio ha 6 poli, ho visto che ci va bene il microfono dell'altro, infatti avevo una prolunga già fatta, a 6 poli, l'ho messa su questo microfono ed è perfetta. Prima mi stavo impappinando, sì, questi hanno 6 poli, ne ho già, cioè posso usare microfoni intercambiarli, e in più però per questo apparato, per il President della Linco eccetera, avevo anche un adattatore da 6 a 4, quindi la compatibilità è quasi totale, dai, posso mettere il più 5, posso mettere lo ZG da palmo, oppure quel KPO che sia anche meglio. Anche se su questi non rende molto, è perché è come se avessero, Carlo, parlo del mio, di questo qua, una cosa è il guadagno microfonico interno, che si può migliorare più, o da menu di servizio, però poi hanno come un limitatore, che comunque non ti permette di spingere più di tanto, e lì, a meno che non manometti dentro, ma si tratterebbe di saldare una resistenza, qua è microscopico, è tipo cellulare, non bisogna toccare niente qua, è che è un incubo, K. Vai Natali. Io un attimo mi sto misurando la glicemia. Gianni, che radio hai preso? È una radio vintage, si chiama Polymar 600 SSB. Polymar? No, Palomar. 600 SSB. Diciamo l'ho presa così. Non mi serviva nemmeno, l'ho presa perché l'ho vista, mi è piaciuta e l'ho presa. Come sta andando questo microfono? Questo è lo ZG MB4. Già va bene Gianni. Porta con questa radio. È un po' abulottosa, mi già. Volendo si può diminuire un po'. Stavo dicendo già Polymar, no, Palomar, che io confondo poi con Polmar, che è un'altra marca di baracchini. Per quanto già la Polmar non stia facendo più niente, i baracchini non fa più niente, fa giusto un bibanda, mi pare, e due o tre PMR veri, PMR omologati. Sì, confermo, anch'io conosco la Polmar, e anch'io sono fermo a quello, PMR e VHF mi sa che fa, però roba di CB non, magari li ha fatti in passato, ultimamente ho visto solo quella roba, e forse qualche marino di Polmar c'è. E a Puglia che la Polmar li ha fatti i CB, ne ha fatto uno bello azzurro metallizzato, bellissimo. Ehi Briciola! Avanti, chi è? Buonasera, Briciola da questa parte. Chi? Briciola! Isola? Briciola, briciolina, eh? Gianni! Dimmi! Guarda su WhatsApp! Gianni, ma stai cambiando microfono? No, sto guardando WhatsApp, un attimino. Ah, KK, ho capito. Sì, sì, comunque quello di Gianni non è, è Polmar, ma Polymar, mi è sembrato di capire. Si assomiglia sia a quella marca là, ma non è quella, è diversa. Mi sa che mi ha detto che c'ha la banda laterale, vero Marco? Palomar, SSB 600, non Polymar, Palomar. Eia, Palomar, Palomar. Eia, sì, quello è AMSSB. Come poteva essere Gianni, allora ti ricordi il CTE SSB 350, che era più semplice però, aveva molta meno comandi aveva. Marco, come ti sto arrivando da te? Sono al minimo qua. Sempre fondo scala. sempre 9:30, qua non ho attenuatore peraltro. Sì, sì, anche tu qua, fondo scala. Ah, ti volevo dire, i giorni scorsi, no, che ci siamo sentiti quando io stavo andando a lavorare, no? Tu praticamente ti senti a bomba anche sino all'aeroporto, io ti sentivo perfettamente, capito? Solo che usando la frusta, diciamo, mi rende meno rispetto all'altra che usavo prima, diciamo è più pratica ma rende un pochettino di meno, se no mi avresti sentito. È che l'altro giorno c'era anche il QRM molto alto, quindi c'erano segnali forti eccetera, io da là più di 6-7 non faccio, anche con l'aiutino, però tu arrivi forte sin là. Naturalmente aiutato, 50 massimo, che poi 50 qui, con tutti i metri di cavo ne usciranno sino 30 dall'antenna, ne arriveranno 30 penso. E Franco appunto diceva che quando usavi l'altra antenna ti copiava fino proprio all'aeroporto, però poi dipende anche dalla propagazione, perché quando c'è propagazione è un ciabotto che non finisce più. Invece ieri non ti copiava con quella frusta. Esatto, esatto, sì, sì, ma con lui ci ho parlato tante volte, proprio addirittura tante volte sono partito da Sassari, io l'ho sentito sino all'aeroporto e ci ho parlato tranquillamente, magari in periodo estivo dove magari c'è più propagazione, meno QRM, giornate del genere, si parla bene anche a lunga distanza. Allora, un giorno che devi andare, io provo a mettere il 3009, perché il 3009 è più silenzioso di ricezione, proprio a livello di rumorosità, mentre questi qua, SMD, sembrano delle friggitrici alle volte, capito? Troppo rumorosi, cap. Vediamo se è entrato Natalino, dai, che così stacco un bel po' qua e faccio altro. Natalino, ci sei? Sì, che ci sono, mi stavo misurando la glicemia, capito? Insomma, Natali, è destino che tu questo apparato non debba trattarlo, così è. Cosa vuoi che ti dica? Ce ne andiamo a mare, ce ne andiamo a me. C'ho due canne per i calamari e le seppie, e ne ho qualche altra per altre cose, quindi ci troviamo un altro ubi, là. Tanto già sono stato già 3 anni in prigione. Qua anche la vitamina D mi devo prendere, dimmi tu. Una curiosità, Natale, ma tu non mi hai mai detto, se tu lo trovassi usato ma in buone e in perfette condizioni, quanto vorresti spendere? Perché ce l'aveva quell'apparato anche Gianfranco, il radiatore, siccome non c'ha ben altri apparati, se lui volesse disfarsene, lui potevate anche mettere d'accordo. Se è all'ascolto, vediamo se può rispondere. Gianfranco, ci sei? No, lui aveva un presidente, mi sembra. Forse anche un presidente, però ricordavo del 5005, monettone, che hanno queste sigle 5555 ripetute, insomma. Però potrei sbagliarmi, Natali. Però non mi ha risposto. Quanto vorresti spendere, grosso modo, contando che il nuovo, quanto poteva costare? Non parlo di quelli di adesso, sempre 170-180 euro nuovo. Prezzo onesto, e poi ci sono quelli che lo prendono anche a 2,20, e quello è un prezzo già fuori mercato. Capo. E la metà vale, quando tu lo prendi usato lo devi pagare la metà, magari qualcosina in più se è nuovo, se no io non ho problemi per quello, io te l'ho detto, se tu me lo volevi dare te lo pagavo, non è che lo volevo gratis. Già lo so, Natali. Carlo, Natalino mi sta bindolando perché vuole a tutti i costi questo, non questo di adesso, quell'apparato lì simile 6009, e vedrai che riuscirà a infinocchiarmi a farselo vendere. Farselo vendere, se tu me lo vuoi dare io te lo pago, mi dice quanto vuoi, siccome tu li tieni bene gli apparecchi, anche qualcosa in più ti posso dare, nella metà di quello che hai fatto, hai capito? Ma se me lo vuoi dare, se non me lo vuoi dare, pazienza, quando faccio le tornate me ne andrò a pescare e non ne faccio niente. perfetto, allora avete ripreso assieme, ovviamente è passato Carlo, e avete anche mollato quasi nello stesso momento, un secondo di differenza. Adesso Natalino mi deve ripetere tutto. Ho detto, siccome so che tu li tieni bene gli apparecchi, ti posso dare qualcosa di più pure, mi dici quanto vuoi e facciamo l'affare. Se no, se non me lo vuoi dare, no, non fa nulla, là. E me ne andrò a pescare, ho detto così. La corte ti sta facendo! E allora, mi sta facendo la corte, mi manda anche il buon mattino, la foto della caffettiera, i saluti, capito? Mi sta infinocchiando, mi sta. La corte è Palmadura. Ciao Gianni. Io. Veramente. Siccome io sono una persona educata, lo mando a tutti il buongiorno. Dillo a Gianni, dillo, cosa ti posso dire, a tutti quelli che mando il buongiorno. Glielo mando a tutti, a Franco. Ah, lo mandi a tutti, io credo che fosse una tattica per riuscire a capire l'apparato. Ah, tu credevi male. Io sono una persona educata, hai capito? Che se ne dica, perché qualcuno l'ha messo in dubbio, però non mi conosce bene. Via, è entrato il profeta, già, riprendi tu, dai, così finalmente riesco a staccare a fare sto caffè, che qua me lo stanno pretendendo. Ok, a dopo, vai profeta. Buonasera a tutti, non so chi ci sia in ruota, ho sentito a te con la storia della corte, e niente, quindi buonasera a tutti. Penso che ci sia ancora in ascolto, dai. Buonasera. Ciao. Mi siete sovraccaricati sia Carlo che Natalino. Buonasera a tutti comunque, dai, non mi trattengo tanto, giusto? Qualche passaggio, poi devo andare a Tabacchino a fare una commissione. Marco è andato a pigliarsi un caffè. Avanti a chi tocca. Ciao Gianni, vi ho sentito, buonasera. Ciao doppio, buonasera anche a te, non sapevo che eri ruota. Sono entrato così a gamba tesa, come si suol dire. Mi è sembrato di percepire che c'era una televendita in corso, no? Vendita di finocchi. Ah, ecco, oh, yeah. Tra un po' certe parole non si potranno pronunciare, baromacchini di raienti, baccare dai. Cos'è che state vendendo, io? Finocchi, a ne vuoi finocchi? No, c'era finocchi vegetali, carciofi, patate, tipo cofano aperto, mi. Andavè. Mi date un rapportino su, non tanto sul segnale, ma sulla radio, com'è? Ma è schifo già, perché tu dai toccata e fuga fai, allora controllo non te ne do, così impari. Vabbè, dai, lo chiedo a qualcun altro, dai. L'importante ti metto, niente controllo stasera, va, così fai, va al tabacchino, va. Qua già sembra la modulazione solita, potrebbe essere M95, ma può essere anche di no. Il segnale 925 modulato. No, negativo, sono con l'Uranus, è un microfono dinamico normale. Ho attaccato l'Uranus per farlo girare un pochettino. Questa è pompa di radio, Pari amplificato, poi c'è una bella radio già. Bene, sono contento. E Carlo cosa mi dice? Radio Super 5, la radio va benissimo e il segnale idem, 9.10, 9.15 qua, come moduli c'è un po' di ritorno indietro e poi va avanti, però è così. Eia, positivo, dai, sto uscendo neanche con 2 watt, lo strumentino mi dà quasi 2 watt, dai. perché poi se schiaccio high power capirai, si solleva a 4 e mezzo, dai, niente di eccatante, ma già va benissimo. Va più che bene. Ma cosa sono questi cicalini che si sentono? Pli pli pli pli pli pli pli pli. Ah, qualche radiocomando. Sì, è una specie di packet, sembra un treno di impulsi. Ah, e allora attenzione, vuol dire che c'è arrivato il treno di impulsi. Vi siete sovraccaricati? No, io stavo ridendo, per la battuta. Ah, per il treno di impulsi? Via. E beh, lì è adeguato, no? C'hai la stazione dietro. E beh, vedi tu, roia. Oh, mamma mia, mamma mia. E quindi questa te ne vendita, chi è che sta commerciando? Io volevo che Marco mi prendesse un apparecchio per lui, ma non stiamo commerciando, la partita è chiusa. Voi avete parlato in due, chi era l'altro? Gianni? Doppio sì. Ho detto la partita è chiusa, ma quindi abbiamo finito le trattative in senso positivo o in senso negativo? Ah, ma è da te, da uno, cioè da me. In realtà di poi, a parte gli scherzi, quello sai che lo piango, forse il 9.900 non lo piangerei, forse, neanche il 7.900, però quello un po' di più. Quale vuole? Non ho capito, 5.55. Sì, 5.500 Pro Intec, no, che c'ha anche una retroilluminazione diversa anche delle serigrafie, un po' migliore. Sì, intanto Marco, ne hai gli apparecchi che ti fa il bagno in mezzo. Sì, lo sentite? Chi è che lo sente? A meno che non lo sentano le persone vicine. Questo treno di impulsi. Io già lo sento, sembra lo squillo di un telefono. Qualche radiocomando deve essere, dai. Magari qualche tono di microfono, qualcosa del genere. Ah, aspetta un attimino. Oh Carlo, tu che hai quell'apparato? Io è una funzione che non ho mai utilizzato e che ho scoperto dopo anni che ce l'avevo. Praticamente in quell'apparato tu hai subtoni come ce li hanno gli apparecchi tipo VU. Tu praticamente se per necessità dovessi comunicare con un altro punto senza sentire né propagazione né QRM né niente, tu mettendo i subbottoni ti si sbloccherebbe l'ascolto esclusivamente dalla stazione che trasmette col subbottono, capito? E cioè nessun altro potresti sentire, né praticamente segnali di propagazione, né QRM, né altri segnali, solo il corrispondente col subbottono. C'è quella roba lì che puoi inserire. Subtoni audibili solo dall'altro interlocutore se li ha anche lui, capito? Allora sì, a quel punto sì. Però ricordati che questi subtoni ce li ha sia analogici che digitali, cioè all'orecchio non li senti, funzionano esclusivamente in modalità FM. Perché sono quelli per i punti in 10 metri, allora voi comprendi sì o no? Ah, io già lo so, però li puoi usare anche per comunicare, tipo, metti che per necessità devi comunicare con una persona, capito, e non devi prendere né propagazione né rugine, QRM, quello è ottimale, addirittura c'è quelli digitali DCS anche. Sì, sì, ho visto che ha i toni DCS e gli altri toni, e c'è tutta la tabella degli Hertz, capito, ho visto che si possono inserire, non l'ho provato perché per provarli dovresti avere un amico che ha la stessa radio, magari, oppure se non è la stessa che abbia la stessa possibilità di inserirli, capito? Sì, una sera potremmo provare, perché cioè provarli, vabbè, dovrei mettere l'altro apparecchio in ricezione, ma lì non posso fare la prova completa. Naturalmente vale sempre quel discorso che tu senti unicamente il corrispondente, però se c'è che sono una portante di segnale maggiore, lì lo squelch chiude tutto, capito? C'è sempre quel problema lì, segnali maggiori chiudono comunque la ricezione, te lo schiaccia, capito? Non senti più il tono subaudibile e interrompe la ricezione, capo. Va bene, devo staccare necessariamente, riprendi doppio loop. Capo Marco, dai, stai andando via, non so se stai andando via, se no buon QRX. Già, qua è un vai e vieni, dai, non riesco a stare fisso. Ritenetevi super salutati nel caso, ciao. Sì, va bene, dai. Rientra poi se puoi. Avanti Carlo. Sì, no, con Marco stiamo parlando appunto che queste radio hanno la possibilità di mettere i toni, diciamo, di CS e gli altri, ma mi sa funziona solo in FM, come diceva Natalino, per i ponti sui 10 metri, non so nemmeno se ce ne sono di ponti, Natalino. Sui 10 metri, non è roba che possiamo usare noi. Sì, sì, quello è ovvio, ma non so nemmeno se ce ne siano, capito, su quelle frequenze lì, non ci ho mai badato, insomma, non mi sono mai interessato nemmeno, quindi non ho mai inserito queste cose qua, so come funziona, come si inseriscono, ma non li ho mai provati, capito. E manco io se per quello. Gianni, allora come va? Rieccomi, dai, grazie del rilancio, ne approfitto, dai. Come ho pronunciato prima, devo scappare, lo so che Natalino si arrabbia adesso, però vabbè. Purtroppo è così, dai. Dai, salutami a tutti e niente, vado al tabacchino a pigliarmi il tabacco e poi a fare altro, dai. Grazie per le piccole chiacchiere, ci risentiamo quanto prima. Ok, dai. Buona serata e tante cose belle, alla prossima. Ci sentiamo alle prossime, Gianni. Ciao già, ci sentiamo alle prossime. Ciao, buon corretti Gianni, ciao. Natali, quindi sei in fase di prenderti un'altra radio, ma per usarla in macchina o a casa? No, mi serviva in estate per quando c'è propagazione, perché il 3009 non ha i canali, capito? E non lo voglio aprire quello, se no già ce l'ho l'apparato. Però non lo voglio aprire per usarmene uno così. Ho capito, sì, però diciamo che questo non è stato aperto, ma col cavetto e col computer, col programma si fa tutto senza toccare la radio, capito? Poi se vuoi lo riporti com'era, capito? E il tuo penso sia la stessa cosa, però bisogna avere il programma, il cavetto e appunto conoscere il programma per poterlo modificare. No, questo no, questo bisogna aprire l'apparato, c'è uno di quegli affari che ci sono, tanto per dire, nei computer o nei drive, sposti quello lì e ti dà tutto quanto, capito là cos'è il discorso. Non lo voglio aprire perché sennò rimane aperto e non fa, è meglio che sia sempre normale quello. Ah, ecco, capito. Sì, allora va bene, dai, ci sta pure, ma magari già lo trovi qualcosa del genere, dai, anche a buon prezzo, qualcosa di usato buono, già facendo la giusta ricerca già lo trovi. E non ne ho tempo né di fare ricerca, né questo né quello, se non le posso fare non ne voto, sai tu. Io quando sarà possibile voglio provare l'Albrecht con il 5890 che ho aggiustato, lo voglio provare in macchina a vedere se riesco a trovare un'ubicazione che non mi crea troppi problemi, forse ci sta nel cassettino, nel vano porta oggetti, magari riesco a sistemarlo lì. E se ci riesci è buono lì, così non si vede nulla. Gli fai l'attacco della magnetica come l'ho fatto io, che non si vede nulla, me la tolgo dal cofano e l'attacco alla cappotta e boh, quando ne la tolgo l'antenna non si vede più nulla, molto ci vuole. C'è il capo dell'antenna che è nascosto lo stesso, quindi è una cosa abbastanza pratica. Esatto, anch'io voglio fare una cosa del genere. E poi per rispondere a Gianni, che l'altra volta ne stava parlando delle membrane, delle basi magnetiche, quelle in gomma, ho visto che ce ne sono di tutte le misure, costano anche abbastanza poco, intorno ai 5-6 euro, non costano di più. Sì, lo so, io l'ho aggiustata la mia, l'ho aggiustata con silicone nero, l'ho fatta perfetta, non si vede nulla. Sì, adesso hai cambiato radio o microfono già? Ho cambiato tutti e due, radio e microfono, perché questo è il Galaxy. Ecco, adesso sei tu, infatti, ho detto caspita, adesso è la voce sua, prima eri completamente diverso. Tutto è stare a farci l'abitudine, perché io mi sono ascoltato con le cuffie, vabbè che non è che sia, diciamo, uguale a come esci, ma mi sono ascoltato e la radio era più o meno come la mia voce naturale, dai. Sì, magari da vicino è così, però è sicuramente il microfono che stavi usando, quel microfono là, l'originale, capito? Qua invece anche se usi l'originale già esci bene comunque. Già lo so, il Galaxy, sì. Ho provato a mettere il microfono del Galaxy, tanto c'hanno lo stesso attacco, esce un bel bene, ma quello lì non lo tocco perché quel microfono lì deve stare per il Galaxy. No, infatti quello è originale del Galaxy, lasciatelo sempre. E hanno gli stessi attacchi, l'ho attaccato, va benissimo quello. Esatto, anche il coso, l'MB+4 lo stai usando col Galaxy. Non è questo. Ah, questo stai usando l'MB+4 adesso. Te l'avevo dato con l'attacco già. Sì, ma l'avevi dato già con l'attacco predisposto. Sì, perché sì, adesso che mi ricordo, sì, non mi ricordavo se l'avevo staccato, se invece no, perché l'ho usato un paio di volte, io su quella radio andava benissimo, me l'aveva fatto Antonello Pomponio quell'attacco lì. Perché quando li vendono normali che vanno bene per il Midland, attacco Midland, dai. Mentre invece per il Galaxy devi solo spostare quelli di sopra, metterli sotto in linea e quelli di sotto sopra, non c'è da sbagliare. Ma Antonello già lo sapeva, capito, quindi me l'ha fatto al primo tentativo. No, già va bene, io sono lontano, mi sono lontano un braccio parlando. Io ho voglia, si sente perfettamente. Cioè tutto il braccio allungato e quasi non ci arrivo a toccare il tasto. È una bomba, già funziona bene, per quella radio va benissimo. Io l'avevo provato da qua con Claudio, me l'aveva fatto regolare lui, dice mettilo così e non sbagli. Sì, ma per il Galaxy quasi tutti i microfoni vanno bene, perché la radio buona, capito? Ti fa uscire bene la radio. Qualsiasi microfono metti va bene. Io ne ho 4 o 5 qualche amplificati. Se li provo tutti vanno tutti bene, perché è la radio che ti fa uscire bene, oltre il microfono. Sì, quello senza dubbio. Quindi Natalino, ti diletti anche con la pesca tu? Sì, Natalino si deve essere assentato, sì. Siamo andati anche qualche volta insieme a pescare con Natalino. Io tante volte ci ho provato e ci sono andato poche volte e poi ho mollato sempre tutto. No, io prima lavoravo a Portottone, se avevo la passione, come uscivo dal lavoro andavo subito a pescare, mi facevo 2 orette e poi tornavo a casa, così mi scaricavo anche le nevrosi del lavoro e pescavo, dai, dico la verità, pescavo bene. Non lo metto in dubbio, se lo sai fare e hai pazienza e a volte anche un po' di fortuna, che non guasta, già qualcosa la porti sempre. Sì, no, già è una bella passione quella, solo che mi sa che adesso ci vogliono anche lì permessi, le licenze, cose del genere, no, sbaglio già. Ha un piccolo permesso che ti fa la capitaneria oppure te lo puoi scaricare da internet, ma non è tanto un permesso, e diciamo loro vogliono vedere chi va a pescare con la canna, chi va a pescare, che tipo di pesca svolgi, capito? Se bisogna, fanno solo, diciamo, una statistica sui pescatori che ci sono, da quelle cose lì, capito? Quindi sì, ma se ti controllano devi averlo, capito, questo permesso. Se lo puoi fare sia la capitaneria del portatore, se lo fanno gratis, non paghi nulla, oppure te lo scarichi da internet. Ho capito, no, ma io adesso non ho neanche più attrezzatura, la poca roba che avevo l'avevo data a mio nipote, che lui abita a Sorso e quindi ogni tanto ci va a pescare, quindi dio calami, quella canna che ha è bella eccetera, e quindi avevo regalato tutto, adesso non ho più niente da pesca, forse mi è rimasta una lenza che ho visto, una lenza lunga con quella specie di seppia finta che si illumina, che la metti su una fonte luminosa, forse per prendere polpi, capito, che c'ha tanti ami attaccati, forse mi è rimasta solo quella. La totanara, esatto, me l'aveva regalata un pescatore di Golf Aranci quando facevo servizio lì, andava a questo, lo facevo passare perché la capitaneria chiudeva e la notte c'eravamo noi, e io lo facevo passare di nascosto, capito, andava a pescare, tutte le volte che se ne andava c'aveva il secchio pieno di polpi, me ne lasciava una busta sempre. Vabbè, una mano la varanza. Hai pescato senza andare? Ti sto parlando di più di 20 anni fa, a Olbia lì verso Golf Aranci c'era anche la, come si chiama, l'allevamento di orate, ogni tanto scappava qualcosa da quell'allevamento, era pieno di orate, si pescava di tutto. È successo anche a Alghero, si bisticciavano per i busti per pescarle, si è rotta la rete, sono scappate tutte le orate dell'allevamento, ma dimmi, si bisticciava, ha dovuto intervenire anche la capitaneria per separare, perché bisticciavano per il posto. È perché quando fuggono quella roba, capito, se ne vanno in giro, quindi se tu sei lì per caso che stai pescando, tiri fuori di tutto e di più. Io sono sempre l'allevamento, Carlo, una cosa è pescare pesci di mare, una cosa è pescare. A proposito di pescare, avete saputo nulla di quei due sub di Sassari che li stava praticamente affondando la barca, hanno chiamato la capitaneria, gli hanno detto che c'era la muta, che si stavano tuffando in mare, che poi c'era un bel di mare, hanno dovuto sospendere le ricerche. Ho saputo che uno l'hanno trovato. Sì, uno al TG3 l'ho sentito, uno l'hanno trovata a Platamona, praticamente è andata a finire su un pezzo di spiaggia tipo scogliera che c'è lì vicino alle abitazioni, un signore è uscito a fumare, l'ha visto, pensava fosse morto, invece poi l'ha visto che si muoveva, ha chiamato i soccorsi ed era in ipotermia, l'hanno portato all'ospedale, così diceva la TV, e dell'altro ancora non si sa niente, stavano sempre cercando. Ho visto che c'era ieri l'elicottero sino a tardi, perché l'ho visto rientrare quello dei vigili del fuoco, quindi non so se l'hanno trovato l'altro. Poveracci, ma forse sono usciti con mare mosso, non lo so, perché poi dice che non si potevano dovuto interrompere le ricerche perché il mare era incavolato forte. Sì, purtroppo in questo periodo capita spesso che all'improvviso cambia la situazione meteorologica, capito? E se non sei ben aggiornato ti frega, se hai un'imbarcazione piccola si alza appena appena il mare, le onde, insomma ti sbatte da una parte all'altra e ti fa affondare secondo che barca hai. Beh certo, hanno imbarcato acqua, sicuramente non ce l'hanno fatta, vabbè. No, lo dice, sono tuffati con la muta, quindi già quello un po' li ha salvati la muta, perché se no vivo non avrebbero trovato. E anche perché ancora sta facendo freddo, le temperature sono basse, l'acqua è fredda adesso, capito? Se sei a largo soprattutto lì prende tutte quelle correnti delle, insomma, della Senara, ed è freddina l'acqua, di massimo ci duri un paio d'ore con la muta e poi devi uscire. Pensa tu, questi sono stati tutta la notte così. Lo so, però vabbè, avevano la muta sicuramente sui 5 mm, perché d'inverno si usano quelle, sui 5 mm già un po' ti ripara, dai. Insomma, però capito, quello è stato fortunato che magari la corrente l'ha portato in spiaggia, capito, l'hanno trovato subito. L'altro invece non se ne sa ancora niente, infatti stavo guardando col cellulare adesso, ma non l'avrebbero scritto sicuramente, se sicuramente ancora lo cercano. Ma com'era? Era vigile oppure era svenuto, roba del genere? No, diciamo che era vigile, così hanno detto al TG, solo che era, insomma, un quadro un pochettino compromesso ed era sempre in osservazione. Il medico ha detto che per quanto riguardava l'ipotermia era, diciamo, a buon punto, però altri parametri, quando stai troppo in acqua al freddo, capito, ti scombina un po' le cose. La pelle e tutto quanto si rovina, cioè, lo so, l'acqua ti mangia. Dopo un po' di tempo io ci stavo 4 ore e quando uscivo c'avevo le dita che erano tutte aggrinzite, tutte bianche, le mani, e infatti mia moglie mi sgridava sempre che ci stavo troppo, che mi faceva male, e una volta me l'ho vista brutta, ho avuto un malessere scendendo e sono arrivato in spiaggia e vedevo tutto che mi girava attorno. Lei se ne accorta perché mi sono fatto tutto bianco e mi ha detto: cosa c'è, male? Ti senti? No, non c'ho niente, no, sono solo stacco perché ero troppo in acqua. Mi sono coricato, vedevo tutto girare, Carlo, sembrava che avessi la giostra attorno. Lo credo, sì, quello ti si è abbassata la pressione sicuramente. No, questo qua, quando l'hanno trovato, infatti c'è scritto qua, passeggiavo a Platamona e l'ho visto, era immobile, non parlava e pensavo che fosse morto perché era sicuramente stremato. Invece poi dice che come si è avvicinato lui ha sentito i passi e dice si è girato di un fianco, e allora dice che ha chiesto aiuto e lui aveva il cellulare, questo che l'ha trovato ha chiamato subito i soccorsi, capito, e l'hanno salvato. Però dell'altro sto leggendo ancora, non stanno cercando, ma a questo punto le speranze mi sa che sono poche. E almeno che si sia attaccata a qualche scuglio, qualche cosa, può darsi pure che ce l'abbia fatta, ma io mi auguro di sì per lui, poveraccio. La pesca subacquea com'è bella è infida, via. Io me l'ho vista brutta una volta, mi sono incastrato in una tana e da lì avevo mollato tutto perché ho sparato un sarago, l'ho spanciato e mi stava scappando. Sono sceso in questa tana a capo e mi sono incastrato con la testa, non riuscivo più a uscire. Quando sono arrivato su in superficie ci sono stati 7-8 metri. Sono arrivato su in superficie e ho fatto... Non riuscivo, mi sono attaccato al pallone, è passata una barca e mi ha detto c'è bisogno d'aiuto, e ho detto sì, non ce la faccio, mi ha fatto salire sopra e dal momento, tra l'altro era un amico di mio padre, ha detto a mio padre venditi tutto. Sì, non... vai sempre in coppia, generalmente si va, però ho visto questi erano in coppia, erano in due, tutti e due di Sassari pare che fossero, capito, uno adesso si trova e l'altro è disperso. Spero che ce la possa fare, ma sono passate ormai più di 24 ore, quindi mi sembra strano, capito, uno è arrivato a Platamona con le correnti e questo, non si sa niente, avevano giubbotto salvagente pure, la muta, mi sembra strano. Ah, sono nel fatto di tempo a mettersi anche salvagente. Sì, lui questo aveva un giubbotto salvagente. Forse anche per quello che si è salvato, perché poi si è stremato e perdi le forze, non riesci più a nuotare. Esatto, il freddo poi così ti blocca anche la muscolatura e non riesci più a muoverti, capito, quando stai troppo in acqua, quindi alla fine l'ha trasportato la corrente. Vediamo un po' se Natalino c'è. Natalino. mantenere la convivenza con le persone. Sono qua, sono qua. Quindi... Palla, palla. Palla con mulo. Vabbè. Ma io mi auguro comunque che ce l'abbia salvata, che lo trovino. Una volta noi avevamo fatto... Vabbè, questo qui era, diciamo, una simulazione dalla protezione civile, ci avevano fatto fare, avevano praticamente detto che c'erano dei dispersi in mare e che dovevamo cercarli di notte, e siamo andati con la Jeep con i fari sopra come c'erano i carabinieri, noi c'avevamo la Jeep, quella che i carabinieri poi mettono all'asta, e l'avevamo presa lui. E praticamente siamo andati nella pineta, eccetera eccetera, l'ho trovata io, era una bubbia di strazzo, era una bambola di straccio, però ci siamo dovuti andare con le sirene, eravamo tutti organizzati dalla prefettura, ci hanno chiamato a mezzanotte. Infatti, non sono cose, cioè non si scherza con col mare, dai, e bisogna sempre stare prudenti, uscire con la giusta attrezzatura, in compagnia, e infatti se hai le cose di soccorso sempre in ordine è sempre meglio. Allora, una volta sono uscito alle 6 di mattina con questo amico, cioè amico, era il compagno di un'amica mia, e mi ha detto dai vieni a pescare con me, domani mattina devo uscire, mi sono comprato la barca, eccetera eccetera. Vabbè, stavamo uscendo, siamo usciti da Alghero e ci facevano tutti il cenno come per rientrare, no? E lui diceva amici, i pescatori ci stanno tutti salutando, ma la cosa, ci stanno dicendo di rientrare, no, ne salutano loro, lo salutano a tutti. Ma vabbè, usciamo fuori e comincia questo mare. Vabbè, andiamo via. No, che tu più lontano vai e il mare è sempre più calmo. Oh, ci ha preso una tempesta al largo, eravamo l'unica barca in tutto il mare che c'era, e praticamente lui era tranquillo, è sceso giù, ci ha preso il panino, si è mangiato il panino, si è bevuto 2 litri di vino, si è imbriagato, e alla fine ho dovuto prendere la barca io, anche se non avevo la patente nautica, l'ho dovuto prendere io, perché sennò il giorno ci saremmo salvati, pioggia, vento, un mare, prendevo le onde di lato, capo, la barca si staccava dall'acqua, immaginate, c'erano 2 motori da 80 cavalli. Già l'ho passata anch'io una brutta avventura tanti anni fa con sta paradiso, col gommone, senza motore, con i remi, capito? Siamo usciti a buttare un palamento, si è alzato il vento, quando sono arrivato insomma al porticciolo che c'è lì a Costa Paradiso, dove sono le bagliette, avevo le braccia che non me le sentivo più, un freddo, capito, come si è alzato gli schizzi che ti bagnavano tutto, ed ero io e mio cognato, e lui rema, rema, rema, non ti fermare, queste onde che ti facevano a gigotta, capito. Poi, come se non bastasse, avevo dubbi che riuscissimo anche a rientrare, io avevo paura proprio, l'indomani lui imperterrito, dai dai, il mare è una tavola, è calmo, siamo usciti, e praticamente lui ha iniziato a tirare sul palamito, eravamo in tre però quando siamo andati a ritirare il palamito, la prima cosa che ha tirato è un grongo enorme attaccato al palamito, me l'ha buttato vicino ai piedi, quindi io come ho visto questo grongo non sapevo neanche che cazzo fosse, ho pensato fosse una murena, qualcosa del genere, e mi veniva addosso, capito, ho preso alle 7 del mattino, mi ci sono tirato in acqua, un freddo, poi siamo rientrati alle 10, ne sono rientrato congelato, ho detto dalla volta, ho detto mai più, io il pesce, ho detto a vederlo, solo a tavola cucinato, ho detto non ci esco più, oppure vado al mercato a prenderlo, e non ci sono più uscito. E poi diciamo andare senza motore è un rischio, perché se ti si gira il mare cosa fai? Ti è andata bene, dai, è andata bene, caro. Ma quella volta, guarda, io me la ricorderò sempre, stavo pregando, ma non pregando per dire, no, pregando davvero. Lo credo, perché se finisci in mezzo a quelle onde, anche io la volta, anche noi stavamo imbarcando acqua, e perché gli spruzzi erano talmente tanti che entravano anche dentro il gommone. Infatti mio cognato, che aveva un secchiello, buttava giù l'acqua, e io che continuavo a remare, capito? Ma facevi due bracciate avanti e quattro indietro, talmente era la forza del mare. Io avevo una paura tremenda lì, ho detto qua non ce la facciamo. Poi alla fine, per fortuna, siamo riusciti in due, dandoci il cambio un po' uno un po' l'altro, ma l'adrenalina che avevi in corpo non ti faceva sentire niente. L'indomani avevo tutte le braccia, tutta la schiena a dolori, guarda, sembrava quasi mi avessero bastonato, capito? Infatti dalla volta ho detto io non ci esco più in mare, deve essere proprio una tavola, ma col motore devo uscire, io a remi non ci esco più. Ma noi motori ne avevamo due da 80 cavalli, era una pilottina Sessa con due motori da 80 cavalli, erano anche troppo la potenza che ci aveva. Tu pensa che per sentito dire, sai, la banda a portatore si collegano la barca e cose, per sentito dire il mare va preso sempre di lato, quando praticamente ci sono le onde alte, vanno prese di lato, mai dritte, perché se no ti si gira, capito? E praticamente mi si staccava la barca dalle onde, proprio. Cioè scendevamo di corpo, ne aggolpa la schiena, boom, boom, boom, e lui sotto, imbriaco che pippa. Non sono belle esperienze, meglio fare come Natalino, mi dalla spiaggia, lì non rischi niente, vero Natalino? Io lo grido. Già l'ho creato. Riempi il secchio, poi giri tutto e te ne ritorni a casa, tranquillo e pacifico. E io ce l'ho avuta la barca, il gommone l'ho avuto la barca. No, io quello mai, non sono uomo di mare, diciamo, non mi è mai venuta la passione, ma diciamo il mare mi piace, così andare, farmi il bagno, insomma, vedere anche il fondale, mi metto la maschera, eccetera, quello sì, ma più di quello non faccio. E fai bene. No, io per tanti anni l'ho fatta la pesca subacquea. E prendevo anche qualcosa, adesso lo vedo nuda. Prima dove andavo io prendevo anche i 4 metri di fondale, ci prendevano seppi, polpi, di tutto. Vabbè, Carlo, erano altri tempi, adesso non si trova più nulla perché sono battute le zone e tutto quanto. Poi c'è sempre il rischio, dai. È bello perché ti scegli il pesce da tirare, non è come la canna che quello che ti capita, ma lì lo puoi scegliere proprio il pezzo più grosso. L'altro giorno quando sono sceso a Platamona, già c'erano gente pescando lì, quando mai non si sono resi conto, cazzo, che non potevano pescare niente? Perché cosa c'era? Parati. Perché c'era una barca che aveva le reti, che stava mettendo le reti, non abbicavano. Ma lì buttavo il parametro e così, io vabbè, già l'ho pescata una bella orata lì, l'ho pescata un'orata da 3 kg e passa, ma sono parlato di tutti i gatti che andavano in rogamenti, tutti quanti stavano passeggiando, sono scesi tutti i giorni, ho detto allontanatevi perché già una me l'hanno fatta perdere. Una volta c'erano questi turisti, cavolo, la stavo tenendo fuori, lì c'era grossa a velo, l'ho portata appena l'acqua, quasi è arrivata la battigia e quella ha detto oh com'è bella, scappate. Insomma, non fa piacere perdere un'orata grossa, dai. È sempre un bel pesce quello, l'orata, che sia diciamo d'allevamento o addirittura quella che trovi in mare, non sono la stessa cosa, però già sono buone tutte e due con le patate. Io le ho fatte da poco, le ho fatte il giorno di Pasqua, ho fatto pesce, gamberoni, orate, tutte queste cose qua. E io invece da parecchio che non ne mangio di pesce, ho anche dei gamberoni in freezer, ma non me ne viene la voglia in questo periodo. No, io a me già mi piace, anche a te se piace, da poco mi piace. Ma cosa, i gamberoni? E allora? E non ha dato due, ma con questi di ma non la sputa la diciamo la la crosta. No, li vedo sbucciati, Carlo, li vedo sbucciati, li sbuccio io. Ah, allora sì, beh sì, il cane già lo mangia il pesce, già lo credo che gli piaccia, una roba morbida morbida. Ma non credere che mangia molta roba, per dire, la pizza non le piace, non le mangia, ci sono cani che vanno matti per la pizza. Già ho visto che il tuo già è abbastanza in linea al cane, dai, non è sovrappeso. Certe volte ci sono i cani che si tengono a casa, che mangiano di tutto e quindi alla fine accumulano e sono anche in sovrappeso. Il tuo già è bello lineare, dai. Sì, sì, il mio, vabbè, io gli do pasta, carne, sia mattina che sera, con un po' di crocchette di pesce, di quelle buone, di quelle della Trainer. Boh, non li do altro, qualche volta qualche cavolata gliela danno la gente che viene a casa, dico non dateli niente, che io il cane lo conosco, poi gli viene la diarrea, lo so che è fatto così, è delicato, se gli dai per dire il pollo lo fa subito a diarrea. Perché non è abituato a mangiarlo, capito? Quindi quando gli azzecchi la sua dieta giusta devi continuare con quella. Sì, sì, io sempre quello gli do. Lui mangia, vabbè, gli do carne di cavallo, Carlo, carne di cavallo, cosa ti posso dire, bistecche risossate, qualche volta gli do birrini, ma adesso non ne sto più dando, e i granelli di bue, però quella roba lì non la sto più dando, adesso danno sempre carne, fettine, bue. E quando lo porti all'aria aperta ne mangia, se lo lasci che ne so, sul prato di erba, ne mangia quella che poi lo fa rimettere? Sì, sì, la mangia, ne serve per purificarsi quella. Anche se ho letto da un'allevatrice, ha detto che chi mangia l'erba vuol dire il cane che sta perdendo la salute quando mangia l'erba. Perché molti cani ho visto che lo fanno quello, mangiano non so che erba si scelgano, capito? La mangiano e poi gli viene da rimettere. Sì, anche lui lo fa anche lui, lo fa ogni volta. È quella lunga l'erba, quella fina lunga, e solo quella mangia. Rimane a filo, dai. Di quell'erba lunga, già mi hai capito quale. Mangia quella lì. Ma lui la mangia quasi sempre, da piccolo la mangia, infatti le tolgo la museruola quando non c'è gente per fargliela mangiare. Scusate, ma è tipo erba gatta? Sì, Marco, di quella lunga così, sì. Il gatto lo stesso, credo che lo faccia proprio per depurarsi, perché alla fine credo che anche vomitino, palle di pelo, cioè non è per nutrirsi, lo fanno proprio per depurarsi lo stomaco, cappa. Vai Carlo. Sì, sì, esatto, no, quasi tutti gli animali lo fanno. È un rimedio naturale, dai, quando magari non stanno bene di stomaco e si sentono un pochettino così, mangiano quel tipo di erba e li rimette un po' a posto. E poi il gatto gli si formano delle matasse di pelo nello stomaco e per buttarlo fuori mangia l'erba, capito? Infatti io gliela coltivavo l'erba gatta, quando c'avevo il gatto c'avevo l'erba gatta, gliela coltivavo in un vaso e lui andava e se la mangiava così, capito? Sì signore, capito. Sì, anche loro, insomma, hanno i farmaci naturali e li conoscono bene. Beh, già lo credo. Certo che li conosco, gli animali non vera sagosa. Però a casa non vomita niente, non ne vomita a casa. Qualche volta è capitato, però quasi sempre la mangia e non butta niente, non vomita. Molto probabilmente non ne mangia la quantità grossa per provocare il vomito, capito? Esatto, oppure magari non ti sei accorto e l'ha fatto all'aperto, capito? Perché molte volte la mangiano e quasi all'istante gli dà problemi. Sì, infatti una volta, la prima volta mi sono spaventato, ho visto roba gialla in terra, e tu cavolo, non è che ci ha mangiato un veleno o qualche cosa. Ho preso subito, guardato e ho visto che in bocca non c'aveva niente, ho detto cosa strana. E qua quando sono arrivato a casa gli ho messo un po' di acqua ossigenata in bocca, perché mi hanno detto di fare così. Sì, sì, benissimo, benissimo, sono le 8:15 e vi devo lasciare perché devo uscire, mi stanno chiamando, dai, se coincide dopo quando rientro, se c'è ancora qualcuno mi fa piacere risentirci, se no alle prossime. Ciao Gianni, ciao Natalino, ciao Marco, e non so se c'è qualcun altro in ascolto, purtroppo devo chiudere. Ciao a tutti, buonasera. Ascolto il finale, sto uscendo. Ciao, ciao Carlo, dai, ci sentiamo. Buona questi greca, ci sentiamo, dai. Sto chiudendo anch'io, saluto tutti cordialmente, vado via perché devo portare il cane, non me ne accorto che era così tardi. Con la luce che sta facendo non me ne accorgo mai. Ciao ciao! Ciao Gianni, ciao Carlo, dai, alle prossime, ci sentiamo. Che da 16 anni. Ciao a tutti, ciao. Ciao, ciao Marco, ciao, porta il Marcolino Condo. Ah, Natalino, mi stai aspettando al varco? Sì, al varco, io. Aspetto da picacismo. Peraltro poi stavo ascoltando che è stavo un po' riposando qua la schiena. Nel frattempo avevo cambiato il baracchino. Ho messo il 3009 perché lo sto trattando ben poco. Bisogna finirli che non si rovinano. E hanno sfiorato il 100% le adesioni allo sciopero del personale. Signore. Ma io ho già cenato. Ma di più. 100% aiutami a casinare. E io invece mi devo inventare qualcosa per stanotte, vabbè io ceno anche un po' tardi. E boh, magari mi faccio una cosa tipo fast food, un hamburger con formaggio, salsa rosa, pomodorino a fette, c'ho anche i panini da hamburger, quelli pronti, tipo McDonald's. Io è perché mi devo misurare fra 2 ore la glicemia torna, perché 2 volte alla settimana me la devo misurare. 2 volte alla settimana, cioè tu non la devi misurare ogni giorno però, no? No, perché l'insulina la faccio solo la notte, capito? Quella lenta. Non le sto più facendo, capito? C'ho una pastiglia che dura tutto il giorno. Io. Qua funziona tutto, sì. Il mic originale è K. Io ho quel mic di questo qui che pesa 1 tonnellata. Ma infatti io non me lo so spiegare, perché anche se tu volessi fare una schermatura interna per proteggere la capsula da eventuali interferenze radio, ma perché fare un pezzo di ferro pesante? Non lo so, per far sembrare che c'è più roba dentro, che vale di più, che il microfono è di qualità più alta, boh, questo è leggero, è come tutti gli altri mic. No, questo c'è una rondella grossa dentro di ferro, e lo fa pesare, non sono riuscito a toglierla, per non rovinare il macchino l'ho lasciato così, e allora mi uso questo qua. Eia, ma c'eravate solo voi, non c'è più il profeta, che altri c'era, boh, non mi ricordo nemmeno. Il profeta è andato al tabacchino a comprarsi il tabacco e poi magari non lo so se rientra, boh. Eia, mamma mia, senti lo sbadiglio, mamma mia, questa è la biocco delle 8 di sera, tipico a quest'ora, un pochino mi viene la biocco. Vabbè, poi mi spolvererò qualche film da vedere, film, telefilm, boh. Che in TV non sempre danno roba interessante, Natalì. Lo so, poi se c'è qualcosa che non piace a mia moglie non me ne fa vedere, peggio andare al buio. No, così è, lo sceglie lei il programma. E ti rompe le scatole, magari sono figli che a lei gli fanno paura, lei ha paura e allora non li vuol vedere. C'è da un po' di tempo che danno un sacco di western, quella roba ci guarda mamma con quell'attore dell'anno 3, come si chiama? Il Grintali, come si chiama? L'attore, bah. Sì, già sono un anno che non ne guardo più di quei film di western. Quando ero bambino li guardavo. Ma non mi viene mai il nome di quell'attore. A me piaceva Clint Eastwood come attore, Charles Bronson, Peter Fonda, quello c'era una volta il West, caspita che belli, anche le colonne sonore. Beh sì, erano belli quelli. E mi piaceva quello di Charles Bronson, quando faceva il Vendicatore della Notte, cosa cavolo era. Per fare in modo che... Ah, Giustizia della Notte, ia. Buoni i primi due. Il primo, vabbè, è sempre il capolavoro, diciamo, l'innovazione, più o meno. Già dal terzo, il terzo era già una caffonata, troppo fantasioso, cioè. Sparano da tutte le direzioni, lui li schiva tutti, ma becca tutti, vabbè. E tu Taxi Driver, l'avevi mai visto? Sì, è tutta roba che ho visto. Guarda, ti dirò, per esempio, vedendo il Joker, questo capolavorone, ti dirò che non mi ha entusiasmato come mi aveva entusiasmato il film Taxi Driver. Vabbè che ero più giovane, ero più tutto, però non dico che sia un brutto film, però Taxi Driver non c'è storia proprio. E poi c'era quell'altro, ne ho visto uno o due di questi film. Ah, ma non posso vedere nulla. Porca miseria, lì ci volevano almeno due camere, così col televisore in ogni caso, così ognuno si guardava quello che voleva, cavolo. Infatti, sì, quando iniziano quelli in prima serata, quei film, a me mi veniva mio che mi trovo, mi fatto prima, non agguanto più, Sì, a meno che, ma non fa, cioè, perché ci sono anche quei canali Mediaset Premium, cioè i canali Mediaset o i canali Rai anche con l'altra applicazione, poi presumo ci sia anche il corrispondente, il sito per il computer normale, capito? Il normale sito, poi le credenziali di accesso, ti metti le cuffie volendo, tipo guarda, però cioè, è un altro dei palle, già, capito? Ma a me piace guardarmela coricato la televisione, capito? Non agguanto più, mi viene il sonno, mi addormento e non ne guardo. E quello lo faceva anche a me. Per esempio la notte io quando guardo film, telefilm, quello che capita, mi metto con queste sdraio, quelle pieghevoli, quelle serie sdraio un po' imbottite, un po' comoda, infatti è talmente comoda che mi trovo poi piegato tutto in avanti, drumiddu, e mi sono perso tutto il film o tutto il telefilm, c'è l'altro proprio mi addormento in poltrona. Vabbè, naturalmente se sono, poi quando passa magari quell'ora X, poi non dormo più, quello è il problema. Sì, anche a me me l'ha fatto, mamma mia. Molte volte non dormo nulla, perché quando mi sveglio poi non dormo più. Tutto scombussolato il mio ciclo, come si chiama, circadiano, quello del sonno veglia, no? Più di tanto non riesco a fare al momento. K. Poi Natali gira. Devo anche andare in garage, porca miseria, che c'ho ancora il bidone di fuori. Uffa. Sì, andrà bene me, là, ci aggiorniamo. Alle prossime Marco, là, anch'io adesso spengo tutto qua e mi go, poi mi devo fare anche l'insulina, misurarmi la glicemia e farmi l'insulina. Dura difficile però. Ehi Natale, ehi. L'avrei anche lasciata fuori, però vabbè, tanto domani è brutto, in moto non uscirò, la spesa l'ho fatta oggi, allora la metto al rifugio lì, bella, l'asciutto. Cappa, ciao Natalino, buona serata, buon tutto e sentiamo quando capita. E ciao anche gli ascoltoni, ciao a tutti, ciao. Ciao Marco, ciao.